bella chi mi stai davanti. Ti guardo e non ti posso o dire niente. Vattinti in paradiso tu con li santi. Che tu canterra fai morire genti. Lo primo moro è povera amante. Chi notte giorno taio o per la menti. Aquila si d'argento e porti l'ali. Ti scruscio nulli pinni do quando voli. Dammi una pinna te si to bella lì. Per scrivere una lettera al mio amore. E ci la scrive tu. Ci va a portare. Ci la posa lo canto e ti indavoli. E se chi dormano la risvegliari. Che piccirille mi poda morire. Porte finestre chi serra di siti. Acque chi dorma mi la salutati. E se chi dorma no la risvegliati. Domana quando è giorno non ci decidi. Dorma già aiuta fai. Mi sogni d'oro. Cance sta cupettia. La notte gira.